Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Cari amici e radioascoltatori, come sapete, la prevenzione è l'arma migliore della legalità. È l'arma migliore perché permette di capire quali sono le spie sul territorio, le spie di un fenomeno criminale malavitoso. Oramai lo sappiamo, purtroppo, quando ci sono grandi o anche piccole opere, le mani delle mafie arrivano. Bene fanno quei sindaci, ovunque essi siano, che accendono un riflettore su queste opere prima che sia troppo tardi, soprattutto quando questo accade nei territori del nord. Oggi ci troviamo a Lodi, per la precisione, in un comune della provincia di Lodi, il comune di Merlino, che è interessato alla costruzione di una tangenziale che attraverserà il territorio comunale. Anche dall'ultima relazione del dicembre 2010 del prefetto di Milano, Gianvalerio Lombardi, abbiamo appreso che tutte le opere, anche quelle piccole, piccolissime, in tutti i comuni, sono comunque attenzionate dalle mafie. Ebbene, che cosa ha fatto il sindaco di Merlino, Giovanni Fazzi? Si è fatto venire in testa, in mente, un'idea di collaborazione per cercare di prevenire le eventuali infiltrazioni. Buongiorno, sindaco Fazzi. Buongiorno a lei. Allora, intanto, questa tangenziale è un'opera di che valore, di che natura, di cosa stiamo parlando? La TEM, territorio di Merlino, come buona parte di territorio dell'Alto Lodigiano, del Milanese, è interessato da questa opera, la TEM, tangenziale esterna di Milano, che attraverserà in questo caso il nostro territorio, un territorio agricolo prettamente Merlino, e quindi è un impatto dal punto di vista viabilistico. No? Importante, ecco, un valore dell'opera quantificabile in quanto? Ma il valore dell'opera quantificabile economicamente è una struttura a livello sovranazionale, questo dal punto di vista, si intende, economico, è già stato approvato dal CIPE, tutto ormai operativa come intervento, un'opera. Ecco, no, dico, ma quanto vale quest'opera? 2, 3, 4, 5 milioni? Ma adesso quantificarla non potrei dire con esattezza, ecco, però è sicuramente un impegno economico importante. Ecco, importante. Voi che cosa vi siete fatti venire in mente per prevenire piuttosto che combattere? Ma noi come amministrazione è nata da un'idea dell'ufficio tecnico, il territorio di Merlino, come sarà interessato nei prossimi anni appunto da grandi interventi dal punto di vista strutturale, la TEN, l'ampliamento della Paulese, la Brebemi, la possibilità dell'arrivo del metro vicino a Merlino, tra Merlino, Zelo e Paullo, e soprattutto anche alla luce degli eventi di cronaca, il nostro ufficio tecnico ha avuto l'idea di istituire un protocollo di legalità, in particolare... Ecco, io non credo molto, lo dico in maniera molto diretta, ai protocolli di legalità, mi convinca del contrario. Ma non è un protocollo basato solo sulla carta, ma effettivamente è un atto operativo, diventa parte integrante dello strumento urbanistico del Comune di Merlino. Noi abbiamo approvato a marzo il PGT, lo strumento urbanistico, il piano di governo del territorio, e abbiamo inserito nel piano del regolo del PGT questo protocollo di legalità, quindi diventa operativo, diventa una regola del Comune di Merlino. Chi vuole operare nel Comune di Merlino volontariamente può attendere a questo protocollo, può adeguarsi naturalmente. Ecco, ma quello che è pericoloso è il può, no? E non il deve. Può, cosa vuol dire? No, dal punto di vista è inserito nello strumento urbanistico. Siccome il protocollo di legalità che abbiamo elaborato presentato in prefettura a dicembre, sì, e che ha avuto naturalmente un riscontro positivo, certo, poi dopo è stato concordato e verificato con le associazioni, quindi Camera di Commercio, associazioni artigianali, associazioni imprenditoriali, Assimpredi, associazioni del territorio, sindacati. Ed è stato elaborato in due sedute un documento finale. Il documento finale è questo, praticamente la novità sono due. Il trasferimento di tutte le norme che già interessano i settori pubblici al settore privato. Quindi le imprese, insomma, dovranno adeguarsi a questo vostro protocollo, devono firmarlo e rispettarlo. No, diciamo, noi diventa una regola del Comune di Merlino, una norma del Comune di Merlino inserito, e la novità è questa, queste norme esistono già negli interventi a livello pubblico. Abbiamo trasferito queste norme che sono catalogate, che sono identificate, che sono state diramate al Ministro dell'Interno, anche al settore anche privato. Nel settore privato, nel ho settore, capito. È una di queste novità. L'altra novità è la premialità, sempre partendo dalla legge regionale 12, che dava un premio del 15% per interventi di interesse pubblico. Abbiamo pensato di dividere questo 15% di premialità in un 8% a chi adotta il protocollo di legalità, il 7% bene, assicura ancora le norme di risparmio energetico. Bene, io ringrazio il sindaco di Merlino in provincia di Lodi, Giovanni Fazzi, per averci descritto questa iniziativa dell'amministrazione comunale per evitare o quantomeno per tenere acceso un riflettore contro le infiltrazioni malavitose nelle opere pubbliche. Abbiamo sentito quante, di che importanza sul suo territorio. Grazie a Fabio Cantadori in regia, Laura Faggini in studio e Roberto Galullo, vi auguro una buona giornata.